Ti parte come carro e la figlia da barra e senza alcun riparo l'anima senza te non ti va a dire a me che corre carro pelato a te non ti va a dire a me che corre carro pelato a te e pur se vuole andare ricordati tua darre mia vita gustare onorla senza te non ti pare da me cor mia carlo pena per te non ti pare da me cor mia carlo pena per te la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chiamiti, lasciami.